qualche giorno bastardo lo passo da me, rintanato e rinchiuso lo passo così, così stanco di tutto e di tutti chissà. Questi giorni son giorni che vivo a metà e viaggio in un mondo che forse non c'è, tra cent'anni di libri e miei sogni da star, è un bagaglio di giochi truccati perché non mi viene la vita che voglio per me. Che fatica a nuotare in un mare di noia, senza fine, senza aria, in un mare di noia, di noia. E telefono a caso qualcuno che può regalarmi un momento di tempo che ha, per morire un po' meno da solo qui. Certi giorni son giorni che vivo così, che